In queste ore, insomma, di apprensione, la domanda, diciamo, più giuridica che volevo girare riguarda la legittimità del provvedimento italiano nella chiusura dei porti. Si dice, qualcuno dice che è illegale, che non potrebbe essere fatto, è così? Esattamente così, nella misura in cui ci siano navi, imbarcazioni in situazione di stato di necessità che debbano attraccare. Quindi non è possibile chiudere il porto a tutte le imbarcazioni, lo sarebbe possibile soltanto ad alcune per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, ma certo sempre consentendo a coloro che sono in stato di necessità di poter arrivare e di avere l'assistenza necessaria. È un principio internazionale inderogabile. Ecco, questo ovviamente non sussistono le condizioni di sicurezza, insomma di insicurezza tali da poter giustificare una cosa del genere, quindi. Ma direi proprio di no, insomma non vedo che tipo di pericolo per la sicurezza nazionale, per l'ordine pubblico possa essere costituito da un'imbarcazione con donne, bambini, uomini che hanno bisogno di cure primarie, di assistenza, di bisogno. È chiaro che la posizione italiana ha una sua ragionevolezza nella misura in cui tutti i governi europei non stanno collaborando nelle operazioni e soprattutto nell'onere dell'accoglienza di coloro che arrivano. Quindi il problema non è tanto l'operazione di ricerca e soccorso e la doverosa assistenza e accoglienza delle persone che arrivano. Il problema è poi che a questo si lega l'applicazione del fantomatico regolamento Dublino e quindi della attribuzione all'Italia anche della responsabilità dell'esame delle domande di protezione internazionale. Questo è il problema, ma confondere le due cose fa sì che a rimetterci siano le persone, tutti quegli esseri umani che sono oggi in stato di bisogno o perché non vengono fatti attraccare o perché non vengono fatti partire. Purtroppo non è che cambia molto, sono sempre persone che hanno bisogno di un'assistenza e a queste persone l'assistenza viene negata. È un po' come chiudere un pronto soccorso perché fuori si stanno sparando, insomma è un po' paradossale, direi. Ecco, lei parlava di questa confusione, io dico, come dire, assumendomi le responsabilità, che sembra il governo italiano il primo ad avere questa confusione in testa, perché a proposito della riforma del regolamento di Dublino sembra quasi che il governo voglia affossarla quando probabilmente ne trarrebbe beneficio. Sì, diciamo che la posizione del governo al solito è sembrata più mediatica che basata effettivamente sulla cognizione di quanto viene discusso a Dublino e soprattutto anche nell'individuare le alleanze strategiche. Soprattutto è un passo abbastanza surreale che si cerchi un'alleanza con Orban, con i governi di Visegrad che hanno una posizione estremamente restrittiva sulla riforma del regolamento Dublino e tale da non modificare in alcun modo l'onere degli stati di primo ingresso come invece l'Italia. L'Italia dovrebbe appoggiare fermamente la posizione di riforma che è stata espressa dal Parlamento europeo, che è volta a modificare radicalmente il regolamento Dublino e veramente a modificare l'onere degli stati di primo ingresso. Quindi votare contro il compromesso della presidenza bulgara che era stato presentato la settimana scorsa è assolutamente condivisibile. Non lo è trovare alleanza con stati come l'Ungheria, non lo sarebbe e sarebbe invece una posizione estremamente lungimirante quella di appoggiare fortemente la posizione del Parlamento europeo e su questo cercare in tutti i modi un appoggio degli altri governi, soprattutto di Francia e Germania. Purtroppo però è doveroso constatare che non c'è per il momento da parte né di Francia né di Germania l'appoggio che l'Italia meriterebbe di avere. Le faccio un'ultima domanda: qualora non si sbloccasse per via politica questa situazione, potrebbe essere sbloccata per via giuridica, diciamo così, giudiziaria? Senta, questa è una strada che è sempre aperta e ci sono tantissimi avvocati, ci sono tantissimi anche funzionari del governo italiano che da anni stanno cercando in tutte le situazioni possibili, in tutte le sedi possibili, di affermare giuridicamente di fronte alla Corte di Giustizia, di fronte alla Corte Europea dei Diritti Umani, la necessità di interpretare diversamente il regolamento Dublino, cosa che è possibile. Al momento questa soluzione giurisdizionale in via appunto giurisprudenziale non l'abbiamo avuta e tuttavia sarebbe veramente quella spinta forse che oggi potrebbe consentire di sbloccare questo negoziato così bloccato tra i governi, e va dato merito anche al governo italiano in questi anni, a prescindere poi dalle maggioranze che si sono succedute, di avere seguito una linea politica e una linea giudiziaria, diciamo, coerente nelle sedi della Corte Europea, della Corte di Giustizia, un lavoro che rimane spesso poco conosciuto e che invece il nostro governo sta facendo, ha fatto e che andrebbe valorizzato. Ecco, quindi mi auguro che questo governo che si accinge oggi a guidare la politica italiana anche in materia di immigrazione sappia valorizzare, ecco, tutte quelle risorse che esistono anche all'interno del governo, che negli anni hanno portato avanti una linea che sarebbe un peccato davvero non riconoscere e non portare avanti adesso, che è una che potrebbe davvero dare risultati. Certo, finora non li ha portati, però è doveroso continuare a sperare che questo invece avvenga.